Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Forse ci sono riuscito. Questa è una nuova forma di vita, un passo in avanti dell'evoluzione. Wow. In nome di Dio, che succede? Il tuo robot è un problema per me. Un robot senziente può essere la fine per l'umanità. Distruggi quell'androide. Riducilo in cenere. Buongiorno e buona domenica. Oggi proseguiamo la trasmissione che abbiamo condotto ieri sul tema robot, arrivo dei robot in fabbrica, tassa sui robot. Vi ho riproposto ancora Humandroid, il film tratto dalla pellicola del 2015, la clip tratta dalla pellicola del 2015 di Neil Blomkamp, che parla di un robot senziente o con autocoscienza. I robot arriveranno nella nostra società e soprattutto stanno arrivando in fabbrica nella forma anche dei cosiddetti robot collaborativi che collaborano con l'operaio. Però l'automazione oggi è già così avanti da far pensare di sostituire totalmente l'operaio? Io, guardando lo stato dell'arte, ho un po' di dubbi, nel senso, sono stato all'ultima edizione del MEXPE, la fiera dell'automazione e della robotica, che si è tenuta a Parma il mese scorso. Ho visto i robot collaborativi, sì, certo, fanno delle cose, però la presenza umana è ancora importante, e le catene di montaggio, che comunque spariranno, per ora ci sono ancora, a Mirafiori ci sono ancora. Sollecito il professor Beltrametti, che ci accompagna in questo piccolo viaggio, a dire la sua su quanto appena detto. Intanto, buona domenica, professore. Buona domenica a lei. Sì, credo che sia il punto giusto. Mentre lei parlava, mi veniva in mente una recente indagine di McKinsey che richiama l'attenzione sul fatto che non è solo rilevante porsi la domanda quali posti di lavoro sono rimpiazzabili da robot, ma anche quali mansioni all'interno di ciascun lavoro. Nel senso che il lavoro delle persone può essere spezzettato in varie singole mansioni, occupazioni, e quindi è possibile che qualche mansione sia per esempio sostituibile al 70% da un robot, altri posti di lavoro ci sia una sostituibilità del 30%, faccio per dire un esempio. Questo implica che se il 30% che non è sostituibile da robot è ciò non di meno indispensabile, la presenza umana non viene messa in discussione dalla collaborazione con il robot, ma semplicemente ci sarà un'impennata nella produttività dei lavoratori che lavorano in fabbrica. Produttività che, ripeto, come abbiamo già detto ieri, ancora nelle statistiche non si vede. Quindi il problema di frenare questa produttività clamorosa che espelle lavoratori dai cicli produttivi, onestamente, mi sembra ancora una preoccupazione un po' troppo precoce. Ecco, forse dobbiamo anche immaginare scenari nuovi e una diversa interazione uomo-macchina che potrebbe proporre e produrre nuovi lavori. Invito, prima della pausa, i nostri ascoltatori a pensarci su e a scriverci a fabbrica@radio24.it. Pensate comunque che nel 2060 un terzo degli abitanti dell'Europa sarà sopra i 65 anni. Questo vuol dire che ci saranno meno persone con necessità di lavorare e più persone da destinare a lavori di assistenza. Già solo questo cambia radicalmente lo scenario. Un attimo di pausa e poi ritorniamo a parlare di robots. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Fabbrica 2.4. Forse ci sono riuscito. Questa è una nuova forma di vita, un passo in avanti dell'evoluzione. Wow. In nome di Dio, che succede? Il tuo robot è un problema per me. Un robot senziente può essere la fine per l'umanità. Distruggi quell'androide. Riducilo in cenere. Rieccoci in linea a parlare di robot. Abbiamo chiuso dicendo che dobbiamo immaginarci scenari nuovi. Un terzo degli abitanti dell'Europa, per esempio, nel 2060 sarà sopra i 65 anni. E poi comunque la macchina e la cooperazione uomo-macchina comportano nuovi linguaggi e nuove professionalità. È giusto, Beltrametti? Sì, certamente nuove professionalità, ma anche diciamo l'ingresso dei robot nel mondo del lavoro richiede una riorganizzazione anche radicale del modo di organizzare il lavoro nelle fabbriche. Ma l'ingresso dell'automazione non diciamo impatta in particolare la componente prevedibile delle mansioni. Questo vuol dire che ci sono alcuni mestieri che oggi consideriamo quasi intellettuali che sono minacciati direttamente. Pensiamo a quello che è accaduto per esempio al lavoro in banca, che era un lavoro impiegatizio, che era considerato un lavoro ceto medio, addirittura ceto medio alto, che ha visto l'ingresso potente delle macchine e dell'automazione. Ma ci sono anche alcuni lavori che sono diciamo non prevedibili e manuali, che sono totalmente al sicuro dall'ingresso dei robot. Quindi quello che è rilevante è la natura prevedibile o meno delle mansioni intellettuali e fisiche. Lo studio che citavo prima di McKinsey, per esempio, stima che nel manifatturiero soltanto un terzo di tutto il tempo dei lavoratori sia dedicato a lavori che si svolgono in un ambiente prevedibile e che quindi due terzi siano al momento non aggredibili da lavoro automatico. Lei per esempio faceva riferimento giustamente a un mondo di anziani in cui nel futuro avremo un numero di anziani ancora più elevato di quello di oggi, ma per esempio l'assistenza alla persona, al di là del fatto che ha molti elementi di imprevedibilità e quindi di non possibilità di ingresso dei robot, ma c'è anche un problema di accettabilità psicologica, sociale il robot però è di ausilio. Per esempio oggi io so dei miei conoscenti che hanno un anziano che ha la badante. Oltre alla badante che sta con lui tutto il giorno, ci deve arrivare un ragazzo forzuto che ha il compito di sollevarlo, metterlo sulla sedia a rotelle, poi dalla sedia a rotelle metterlo nella vasca da bagno, rimetterlo sulla sedia a rotelle. Questo ragazzo aiuta la badante la mattina e la sera. Questa parte di questo compito può essere svolto tranquillamente da un macchinario. Assolutamente sì, se vogliamo fare un esercizio di fantasia, ci sono anche delle strutture robotiche che potenziano molto le capacità fisiche degli individui. Comunque il tema dei robot, della tassa sui robot, l'abbiamo trattato in ampiezza leggendo anche alcuni pezzi di un articolo di Schiller, premio Nobel per l'economia, nella puntata di ieri di Fabbrica 224. Se per caso non l'aveste potuta ascoltare, la potete scaricare dal sito di Radio 24 andando su programmi Fabbrica 2.4. Comunque, se volete dire la vostra, fabbrica@radio24.it. Prima di tornare a far parlare ancora il nostro amico Beltrametti, volevo segnalarvi un libro. Questo libro si chiama, il titolo porta bene, Lavoreremo ancora. Ed è stato scritto da tre docenti della SDA Bocconi, Alfredo Biffi, Pierfranco Camussone e Mattia Pianorsi, e dice sostanzialmente che l'automazione arriverà, ma non è che finiremo tutti a casa. E soprattutto viene fatta un'indagine basata su un campione misto di interviste a opinion leader, manager, tecnici. E tra le domande a questi qui viene chiesto quando ci sarà l'ora X nella quale l'innovazione avrà il suo massimo impatto in termini di distruzione di posti di lavoro. Secondo il 43,9% degli intervistati, quest'ora X sarà tra 5-10 anni, secondo il 25,2% tra 10-15 anni, quindi il massimo impatto risulterebbe, secondo questi esperti, opinion leader, intervistati nel libro dei tre docenti della SDA Bocconi, libro pubblicato da Egea, libro che vi consiglio, Lavoreremo ancora, Egea, ecco, insomma, l'ora X sarà fra una decina, 10-15 anni, e in effetti se uno va a vedere queste fiere dell'automazione, vede come sono i robot oggi, un po' viene confortato in questa opinione. No, Beltrametti? Sì, mentre lei parlava pensavo che per qualche ascoltatore l'espressione lavoreremo ancora, più che un sollievo, può suonare come una minaccia, nel senso che molti di noi vorrebbero liberarsi, come si diceva ieri, dal lavoro, e soprattutto la speranza è che si possa lavorare meglio, cioè si possa per esempio ridurre l'infortunistica in fabbrica, e questo credo che sia uno dei portati dell'automazione, della robotizzazione, quindi ridurre l'incidenza degli infortuni, ridurre ulteriormente

forte. La mia preoccupazione deriva proprio da questo, cioè noi siamo reduci da decenni nei quali abbiamo demolito lo Stato. E da questo punto di vista io sono all'opposto di Giannino, perché tanto lui è per distruggere lo Stato, tanto io sono per dire viva lo Stato. Dobbiamo chiudere. Intanto saluto Beltrametti, arrivederci. Buona domenica. E saluto tutti gli ascoltatori che devono passare il resto della domenica a meditare sui robot e poi a scriverci fabbrica@radio24.it.